Quando ero lì a bere il mare, senza pagare chissà che, mi son bevuto tutto il mare ed ho creduto ai miei perché. Al tempo delle mele acerbe si è sempre pronti a dire sì, però quel tempo è un filo d'erba che il vento strappa via di qui. Il mare da bere è un colpo che non ha importanza quasi mai, lo sanno in tanti e sanno che bere poi non paga mai. E spesso l'ho bevuto anche io, ma non per sete o per viltà, ma per sentirmi un po' più mio e respirare libertà. Io son tornato in riva al mare a bere un attimo di blu, ho quasi pena a raccontare di come sono andato giù. Le facce allegre dei vent'anni in giro tondo accanto a me mi raccontavano gli inganni, la debolezza di ogni re. Il mare da bere è quello che ti giura il falso e se ne va, come un amante, come se inizio e fine tutto qua, perché finisce tutto il vero, come il mattino sfuma già, e quel che resta di mistero lo sveli in fretta con l'età. Il mare da bere è un'altra età e non ritornerà mai più, e il tempo di un'eternità che vola sempre un po' più giù. Ma se a memoria penso che mi son bevuto la realtà, mi sento triste dentro me, adesso non ho più l'età. Quando ero lì a bere il mare senza pagare chissà che, mi son bevuto tutto il mare ed ho creduto ai miei perché. Al tempo delle mele acerbe si è sempre pronti a dire sì, però quel tempo è un filo d'erba che il vento strappa via di qui. Thank you.